La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, sono le 16.31 primi e 50 secondi praticamente, in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto come sempre, Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, radio24.it, e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Traiamo spunto da una grande quantità di materiali che sono stati, e va a loro merito, presentati stamattina dalla CNA. Quindi stiamo parlando di una delle organizzazioni degli artigiani italiani, una delle confederazioni degli artigiani italiani, dedicato a fare, ogni anno oramai lo fanno, è una bella, nobile, secondo me alta tradizione, ogni anno aggiornano un rapporto nel quale si fa il punto di dove è arrivata l'anno precedente, l'imposizione su una piccola impresa italiana. E quindi si fa una graduatoria non solo sul total tax rate, cioè su il prelievo fiscale complessivo sul reddito lordo di questa piccola impresa italiana a livello nazionale, ma lo si fa disaggregato in tutti i capoluoghi di provincia italiana, perché sapete che poi l'imposizione, oltre a quella nazionale, ci sono le addizionali locali, e questo consente di anno in anno, su 135 città italiane, di fare una diagnosi precisa su è vero o è falso quello che ci dicono i politici sul fatto che la pressione fiscale scende, le tasse si tagliano e così via, per quello che riguarda il reddito d'impresa, piccola impresa. A, B, come procede poi in realtà sul territorio la realtà diversificata della pretesa fiscale? Perché come vedrete, già dovreste saperlo come ascoltatore del 24, ma insomma le cifre anche oggi vi daranno l'idea di una forbice molto diversa in realtà all'interno dell'Italia. Poi fanno la classifica del tax free day, ovviamente, cioè qual è il giorno nel corso dell'anno esaurito il debito fiscale in cui si comincia a lavorare per se stessi, e anche qui vedrete che la differenza è molto molto forte. Quindi non è che noi viviamo un paese estremamente diversificato da questo punto di vista. Dopodiché ci ricordano anche nel frattempo, nello stesso anno, come è il total tax rate invece su una piccola impresa in altre sei capitali europee di paesi concorrenti. E naturalmente, oltre a tutta questa complessa mole di dati, poi ci affiancano le loro proposte in materia fiscale. Ma insomma direi che da questo punto di vista è un lavoro molto molto meritorio. Quindi abbiamo invitato oggi, per farvi un po' divertire e molto allarmare queste cifre che sentirete, il responsabile dell'ufficio delle politiche fiscali della CNA, Claudio Carpentieri. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, felice di poter starci. No, si figuri. No. Allora, ci può dire in realtà quando è nata questa idea, se avevate in testa davvero di fare, perché siete diventati un contraltare annuale delle versioni, per così dire, ufficiali dell'amministrazione tributaria. Questa idea come nacque? È nata proprio perché ci siamo resi conto che in Italia non esiste una pressione fiscale che è quella dell'Istat, ma esistono le pressioni fiscali. Perché purtroppo il sistema fiscale italiano è diversificato a secondo di chi produce il reddito. Dovrebbe essere uguale, ma se è un lavoratore dipendente ha una aliquota sua, se è un lavoratore autonomo in semplificata un'altra, se si è in ordinario un'altra ancora. Per 10.000 euro il lavoratore dipendente paga zero di imposte, un'impresa in semplificata il 13%, un'impresa in ordinaria il 23%, IRPEF sto parlando. Quindi sì. da questo elemento poi le società di capitali hanno una loro tassazione particolare. Quindi ci siamo resi conto che la pressione fiscale Istat del più del 42%, per carità, è alta, ma non dettava giustizia del reale peso del fisco sul reddito delle imprese. Allora, a me, aspetta, io la fermo qua, perché questo intanto è un importantissimo elemento che poi svilupperò tra un po' quando uscirà una proposta alla quale anch'io ho lavorato e che intanto avviso gli ascoltatori che arriverà. Questo elemento che ha appena ricordato Claudio Carpentieri è un elemento fondamentale, perché nel nostro paese c'è scritto in un articolo della Costituzione, articolo 53, che il sistema si orienta a una logica progressiva. Ecco, in realtà la progressività che tutti identificano con le aliquote IRPEF, no? Per intenderci, la progressività ha finito per esercitarsi su una parte dei redditi sempre più minoritaria, in realtà vale per il lavoro dipendente, su ciascuno poi degli altri tipi di cespiti di reddite, la politica si è scatenata a inventare, nella stragrande maggioranza dei casi, forme di cedolare secca, quella che un tempo erano le cedolare secche, con aliquote diversificate per tipo di cespite, per tipo di soggetto giuridico, per numero di anni in cui, da cui è nato il soggetto giuridico, eccetera, eccetera. Il reddito immobiliare dipende dal tipo di contratto del proprietario immobiliare e così via. È diventata una selva nella quale la progressività generale e in teoria anche la neutralità e la convergenza delle stesse aliquote su uguale ammontare di reddito, qualunque sia la modalità per realizzarlo, è completamente scomparsa dalla realtà italiana. Però questo non è chiaro alla stragrande maggioranza di chi ci ascolta, quindi mi scusi se l'ho interrotta su questo, ma questo è fondamentale quello che ha detto. Assolutamente, quindi partendo da questa considerazione di principio abbiamo detto: ma come facciamo noi a calcolare il reale peso? Qual è la tecnica? E allora abbiamo visto che la Banca Mondiale calcola il total tax rate, cioè sì, un concetto molto semplice: qual è la percentuale di reddito che se ne va in tasse, no, quindi è diretto. Abbiamo visto come fa la Banca Mondiale e prende un'impresa tipo e la fa saltare da un paese all'altro. Ecco, la vostra impresa tipo, per far capire a chi è a casa che tipo di impresa è, cioè che quanto reddito realizza, quanti dipendenti ha. Perfetto. Ecco, a differenza della Banca Mondiale che prende un'impresa con 60 dipendenti e 20 milioni di euro di fatturato, che non si attaglierebbe alla classe dimensionale delle imprese, ecco, italiane, lo 0,3% dichiara redditi superiori, ricavi superiori a 25 milioni di euro in Italia, ecco, mentre lo 91% dichiara ricavi sotto i 500 mila euro. Quindi la nostra impresa ha 430 mila euro di ricavi, 5 dipendenti di cui uno part time, quindi 4 a tempo pieno e uno part time, e ha 50.000 euro di reddito. Poi ovviamente nel rapporto è spiegato tutto, cioè addirittura gli abbiamo applicato lo studio di settore, abbiamo visto le relazioni tra i diversi valori patrimoniali, cespiti, tutto, per cercare di far vedere che non è un'impresa messa apposta, ma è proprio la più rappresentativa possibile del panorama produttivo italiano, che è composto prevalentemente da piccole imprese personali. Esatto. Quindi questa impresa l'abbiamo fatta saltare da un comune all'altro, dei 135 e dei 5 capitali europei. Allora, e abbiamo visto come varia la tassazione a secondo di dove è collocata fisicamente. Questo è il allora, cominciamo dal dato che indica meno, cioè la media nazionale. La media nazionale che ricavate negli ultimi due anni e per il 2017, e che su questa piccola impresa italiana il total tax rate come è andato? Nel 2015 è il 60,9%. Nel 2016 rimane stabile al 60,9%, nel 2017 proiezioni sale al 61,2%. Quindi risale, per segnale, cari ascoltatori, risale. Però risale. In realtà questa è la media. Sì. Ma se andiamo a vedere la forbice nelle 135 città italiane, esattamente, perché facciamo un po' di esempi tra chi è al di sotto e tra chi è al di sopra di questa media invece del 60,9% nel 2016, che nel 2017 sale al 61,2%. Allora, nel 2017 proiezioni, il comune migliore è Trento con il 54,1%. E il peggiore è Reggio Calabria con il 73,4%, cioè la differenza sono 19,3 19 punti percentuali, cari ascoltatori, che è la differenza, voglio dire, tra una tassazione 73,4% sul reddito lordo impresa dato allo Stato è classicamente una rapina che uccide. Allora, questa è la mia opinione. Ma il dato ancora più impressionante è che nel 2011 questa differenza era di 13,3 punti. Cioè l'iniquità si è fatta ancora si va ampliando in questi anni. Si va ampliando per ragioni varie e diverse. Ci sono parte d'Italia che sono in regime magari di amministrazioni locali, si tratti della sanità regionale o di comuni di rientro della finanza pubblica, e a quel punto ovviamente alzano le addizionali al massimo, eccetera eccetera. Però c'è una tendenza molto evidente, perché se andiamo a vedere le 10 città in cui, dopo Trento, che è quella con la minor total tax rate su questa piccola impresa, appunto 54,1, però nella realtà praticamente quasi tutte sono tutte del nord, tranne Carbonia, che è all'ottavo posto, mentre invece quelle che sono dal 66,5% fino al 73 sono, tranne Firenze, Roma e Bologna, però sono tutte del sud. Sì, sì. E che, cari ascoltatori, quando si dice il sud si pianga e si gratta le sue rogne, però come vedete ci sono dei gap strutturali dal punto di vista del peso dello Stato. È anche vero che in questa regione la spesa pro capite pubblica, e cioè la dipendenza da trasferimenti pubblici, è più elevata, ma come vedete anche la pretesa fiscale è molto più elevata sulla piccola impresa. La stessa cosa, per capirci, capita su il giorno della liberazione fiscale, cioè il giorno in cui si comincia a lavorare per se stessi in questa piccola impresa piuttosto che per lo Stato. Sì, perché ovviamente quella è la faccia della, è un'altra faccia della stessa medaglia. Tant'è vero che la curva segnata dal tax free day, come l'abbiamo chiamato, è uguale. Esatto. È che nel 2015 era il 9 agosto, nel 2016 per via dei arrotondamenti arriva il 10 agosto, nel 2017 la proiezione resta il 10 agosto, perché ovviamente quando il dato è diviso in 365esimi, ovviamente serve un po' più di varianza, no? Per cambiare il giorno, no? Certo. Perché non ci sono le ore, ma è fatta a giorno. Ma il picco c'è stato nel 2012 al 22 agosto con l'introduzione dell'IMU. Le differenze così marcate, se posso dirlo, sono date prevalentemente dalla tassazione sul patrimonio immobiliare. Ah, sì, sul patrimonio, perché? Perché praticamente i valori catastali hanno una varianza allucinante nel territorio nazionale, e vanno da 60.000 euro a 600.000 euro, perché ovviamente non è che abbiamo preso lo stesso bene strumentale uguale per tutti i comuni, perché sennò avrebbe falsato l'analisi. Abbiamo preso, stimato e calcolato e trovato un immobile nella stessa zona della città, in tutti i 135 comuni, e valorizzato il valore catastale. E abbiamo anche visto che il valore catastale a volte è molto più alto del valore di mercato. Certo. E vedremo poi con la riforma delle rendite in arrivo quanto poi questo effetto non si amplierà ulteriormente. Pur tuttavia, rispetto alle percentuali che spesso poi molti ascoltatori, non abbiamo qui la grafica, non siamo in televisione, non colgono la differenza che abbiamo visto prima, che però è molto elevata, ripeto, è 30 total tax rate, 54,1%, Reggio Calabria 73,4%, però è più chiaro forse col tax free day, perché significa che a Trento il titolare di quella piccola impresa ideal tipo su cui si fa questo conto inizia a lavorare per sé dal 16 di luglio. Mentre a Reggio Calabria dal 24 di settembre, che capite bene che è una differenza abissale, per così dire, cioè abissale. E anche secondo me, andiamo un secondo a il confronto internazionale. Sì, anche lì la prima cosa che abbiamo dovuto fare è adeguare i sistemi, perché ovviamente tutte l'impresa. Aspetti, io ho una notizia del servizio da dare, perché l'agenzia ha appena battuto l'ANSA. Leggo il titolo: Parigi, sparatoria nei pressi di Notre Dame, colpi d'arma da fuoco nei pressi di Notre Dame, Parigi, la polizia sta facendo sgombrare l'area. Questa è una notizia però lanciata anche dalla BBC. E naturalmente noi, cari ascoltatori, vi teniamo informati. Mi scusi se l'ho interrotta, però di fronte a notizie di questo tipo, speriamo ovviamente che non sia quello a cui tutti, quando ci sono queste notizie, pensano. Allora, stavamo dicendo, la classifica internazionale. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è ovviamente considerare l'elemento distintivo del reddito che uno produce in ragione di dove sta nel paese, perché ovviamente abbiamo visto che a Parigi la produttività per addetto è più alta rispetto a quella italiana, quindi abbiamo considerato il differenziale di valore aggiunto per addetto e abbiamo rettificato il reddito dell'impresa nostra tipo, perché a Parigi i nostri 50.000 euro diventano 60.000 e a Londra 67, ad esempio, nonché a Berlino 63. Quindi abbiamo ritarato tutte le analisi in ragione del reddito che quell'impresa, qualora fosse collocata in una di queste cinque capitali europee, che sono Londra, Varsavia, Madrid, Berlino e Parigi, produce con quella struttura. Ecco, fatte queste rettifiche che servono per la comparazione in termini analoghi statistici, qual è comunque il risultato? Allora, arriva che Londra 32,5. Quell'impresa stessa che a Reggio Calabria paga il 73 più, a Londra pagherebbe il 32,5% di reddito in tasse. E cioè inizierebbe a lavorare per se stessa il 27 aprile e non da settembre inoltrato. Sì, sì. L'altro dato che mi sento di dire è che Varsavia si posiziona al secondo posto al 43,2, Madrid 46,6, che è quella anche come forma di imposizione è più confrontabile con la nostra come pesi relativi tra tassazione sul reddito, patrimonio, rifiuti e contribuzione previdenziale, Berlino 66, Roma 69,3 per il confronto e Parigi 70,8. Parigi ha una tassazione, in particolare quella patrimoniale, veramente impressionante. E del resto anche come totale delle entrate Parigi è al 53%, quindi rispetto al nostro 49,8 eccetera eccetera, quindi il dato torna, per così dire. Sì, sì, no, ma poi il problema lì è vedere che servizi uno ha rispetto a quanto paga, poi, no? Cioè l'altra veramente, no? Io pago per cosa, no? In Italia la percezione, noi facciamo il dato di quanto si paga, poi la valutazione su quello che uno ha in cambio la fa per sé. Negli altri paesi probabilmente il rapporto tra quanto pago e quanto ricevo è diverso. C'è dubbio. Comunque io questa è graduatoria, adesso abbiamo un minuto di interruzione sul traffico, a me piacerebbe, cari ascoltatori, che questa comparazione, che poi potete ricavare, tutto il materiale sta sul sito naturalmente della CNA, contasse qualche cosa nelle scelte che fate alle prossime amministrative, cioè in termini comparati, sapere di quanti punti è diversa la richiesta fiscale da città a città, da capoluogo a capoluogo, dovrebbe essere secondo me uno dei criteri fondamentali da chiedere ai politici, da parte dei giornalisti eccetera eccetera, invece di farli parlare a sprombattuto su quello che vogliono sui programmi delle città. E soprattutto però serve a voi sapere quali sono, quindi grazie a CNA ogni parte d'Italia sa, stiamo parlando ovviamente del prelievo di impresa, piccola impresa, quanto gli si chiede di pagare. Anche impressione su quest'anno, torniamo tra un minuto. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta la versione di Oscar. This is the end. Eccoci, tornati qua in diretta. Stavo guardando da De Figaro. Intanto c'è qualche prima notizia. Si parla di un aggressore con un martello che è stato bloccato di fronte a Notre Dame. Qualunque altro sviluppo, naturalmente, voi vi teniamo informati. Pare niente vittime allo stato attuale, pare che sia stato bloccato e disarmato. Poi vedremo di che cosa si tratta, se è un matto oppure si incardina in quello che sta avvenendo in questi mesi in tutta Europa. Allora, stiamo parlando di questo bellissimo, amplissimo lavoro di comparazione della pressione fiscale sulle piccole imprese italiane nei 135 capoluoghi italiani, avete visto, anche all'estero, ed è una cosa che fa capire chi sono i buoni e i cattivi fiscali in tutta Italia, e quando il fisco lascia in pace di lavorare per se stessi chi ha una piccola impresa. Veniamo secondo alle vostre proposte da questo punto di vista. Sì, allora le nostre proposte partono ovviamente da che cosa? Dal punto di vista nostro, cioè da quello che abbiamo visto è il problema sulle piccole imprese. La prima cosa è che serve veramente andare verso una riduzione, cioè che la pressione fiscale ridotta deve essere il primo punto dell'agenda del governo. Ma il problema è che qui non è questo, a parole lo dicono, poi fanno però i bonus non universali e non permanenti, ma che poi assolutamente servono perché a me mi interessa proprio partire da quello che lei ha detto prima, facendo rilevare giustamente che il più della differenza dipende dalla tassazione immobiliare sui beni d'impresa. Sì. E infatti le vostre proposte partono da questo, cioè gli immobili strumentali dal punto di vista della tassazione dovrebbero essere resi completamente deducibili per evitare di pagare tre volte sull'immobile. Perché questo? Perché l'immobile già partecipa alla formazione della tassazione di impresa, perché ovviamente contribuisce a generare il reddito tassato. Cioè l'immobile è come una cazzuola, è come un arnese di lavoro che produce reddito tassato. Quindi prima tassazione, seconda tassazione l'IMU, terza tassazione che pago l'IRPEF sull'IMU perché è indeducibile. è veramente insopportabile questa cosa. Quindi adesso è deducibile al 20%, chiediamo la deducibilità completa al 100%, e voglio dire, stiamo parlando di una riduzione del total tax rate che è stata calcolata importante, perché ovviamente è importante la tassazione che verte sul reddito, e peraltro costa pure poco, perché se si limita solamente a coloro che utilizzano l'immobile per lo svolgimento dell'attività produttiva, costerebbe 500 milioni di euro e quindi darebbe un forte impulso alla piccola impresa a costi realmente ridotti. Questa è la prima proposta. La seconda è sull'IRAP, cioè adesso ci sono moltissime decine, centinaia di migliaia di imprese e professionisti che pagano l'IRAP pur non dovendola pagare, perché non creano l'autonoma organizzazione. Allora noi chiediamo che o sia definita l'autonoma organizzazione, o che la franchigia IRAP salga da 13.000 a 30.000 euro, perché almeno così migliaia di soggetti non pagano un tributo che adesso non è dovuto. Se posso un'altra, perché poi sono 8, non vorrei occupare troppo tempo, una delle nostre proposte molto importante che potrebbe far ripartire la domanda è sulla possibilità di trasformare detrazioni per lavori edili, che adesso in totale sono arrivate a 30 miliardi di euro i lavori edili che danno a detrazioni, trasformare in crediti e dare la possibilità alla famiglia o all'impresa che fa le spese di cedere quella rendita decennale, perché adesso di questo si tratta, in termini di imposte non pagate, a una banca, perché questa gli dà lo sconto e magari non il 50, il 43 o il 44, ma diventa tutto subito. È tutto subito immediatamente utilizzabile per fare l'investimento. Questo significa incremento di domanda di lavori edili e quindi lavoro in più, redditi in più, il motore dell'economia sull'immobile riparte. Ma se poi si dà la possibilità analoga a tutti i decimi di detrazione ancora adesso già maturati ma non ancora sfruttati, significa, secondo nostre stime, mettere in economia 18 miliardi di maggiore spesa per consumi. E questo potrebbe fare, non dico uno shock, però rappresentare un volano, visto, voglio dire, gli effetti limitatissimi sulla domanda ai consumi, che adesso solo sta ripartendo, degli 80 euro che erano attesi molto forti, concentrati su quella fascia di reddito che li ha incamerati, certo stiamo parlando di tutt'altro ordine di grandezza. Naturalmente, ripeto, qui staremmo ragionando, però, come vedete, come ascoltate, di interventi strutturali, universali, permanenti sul fisco, perché altrimenti la gente sa che un bonus, equivalenza ricardiana, si definisce in termini tecnici, si tiene del maggior reddito disponibile che incamera con il bonus una parte superiore a quella che destinerebbe altrimenti ai consumi o ai risparmi e agli investimenti, perché sa che un domani, finito il bonus, risale la pressione fiscale. Lasciatemi dire, andate a vedere sul sito della CNA, perché è chiaro che nelle grandi città la pressione fiscale può essere più elevata, ma per esempio abitanti di Emilia Romagna, che senso ha che a Imola il tax free day per una piccola impresa sia il 18 luglio e a Castel San Pietro il 24 agosto, cioè 5 settimane dopo? Guardate, è molto utile sapere all'interno delle regioni con generi di aggregazioni urbane analoghe quanto diversa è la pretesa dello Stato. Quindi grazie alla CNA, continuate su Radio 24.